Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. È il 15 di agosto e noi di Mebius anche oggi vi parliamo, come sempre, di scienza. I titoli di questa puntata. Si chiama sinestesia ed è un curioso comportamento psicologico. Una ricerca ne rivela nuovi aspetti. Una delegazione di ominidi di qualche milione di anni fa sta per entrare in un museo americano. Le parole chiave per chi usa internet sono all'ordine del giorno. Il fenomeno prende il nome di tagging ed è oggetto di recenti studi di sociologia della rete. Einstein e Picasso possono stare insieme? All'inizio del secolo scorso sono stati entrambi rivoluzionari. Svelato il mistero della salentoterapia, ovvero come giocare con la scienza per avere un reale benessere fisico e psichico a ritmo di pizzica. Elea fu il primo computer italiano costruito dall'Olivetti. Accadde 50 anni fa. Sinestesia, termine strano, non consueto, ma che riguarda un comportamento umano, psicologico, che è abbastanza generalizzato. Lo chiedo subito a Cesare Parise, psicologo sperimentale. Decisamente sì, nel senso che per quanto comunque di persone propriamente dette sinestete siano una piccola percentuale della popolazione, intorno all'1-5%, sembra quasi che ci sia una forma debole di sinestesia che diffusa. È presente in tutti noi, esatto. Va bene, allora Cesare Parise, psicologo sperimentale, opera al DISCOF, il Dipartimento Scienze, Cognizione e Formazione a Rovereto, quindi qua in Italia, però lei sta lavorando anche a Oxford al Dipartimento di Psicologia Sperimentale. Esatto. È uscito un suo articolo relativo a una sua ricerca su PLOS One che ha a che vedere con i fenomeni sinestetici. Ecco, però noi di solito quando parliamo di questi esperimenti di psicologia descriviamo subito quello che appunto si chiama il teatro sperimentale, cioè che cosa avete fatto fare a delle persone. Però proviamo prima invece a dare una definizione di questi fenomeni sinestetici, proprio magari per gli aspetti che ci possono riguardare un po' tutti. Ad esempio noi usiamo una stessa parola, ossia acuto, per descrivere entità percettive diverse. Ad esempio può essere un angolo acuto, ma può essere anche un suono acuto. Sì. È in un certo senso come se siano linguisticamente codificati dei link apparentemente arbitrari fra le diverse modalità sensoriali. Cioè lei sta dicendo che un angolo acuto tendiamo a metterlo insieme a un suono acuto, per esempio? È esattamente questo. Oppure ad esempio usiamo sempre la parola alto o basso per descrivere non solo posizioni spaziali, ma anche per descrivere la frequenza di un suono. Quindi anche questo è un ulteriore esempio di come appunto ci sono di questi link, di queste associazioni apparentemente arbitrarie, ma di fatto non lo sono. Ma lei mi sta dicendo che se facciamo degli esperimenti, probabilmente li avete fatti, un suono acuto è visto come qualcosa che sta in alto. Questo non l'abbiamo fatto noi, è stato fatto negli anni 70, ma effettivamente quello che è emerso è che se noi chiediamo a una persona, presentiamo in un monitor ad esempio un cerchio che può essere in alto o in basso, e diciamo alla persona rispondi il più velocemente possibile dicendo se quello che hai visto era in alto o in basso, se noi aggiungiamo un suono che non è rilevante per il compito, questo può influire su come si comporterà il soggetto, in particolare influisce sulla velocità di risposta in questo modo. Se io presento un suono in alto, un cerchio in alto ad esempio nel monitor, e lo presento assieme a un suono acuto, un suono alto, il soggetto sarà più veloce a rispondere rispetto a quando la stessa immagine posta in alto nel monitor è presentata assieme a un suono basso. Ricostruisco un attimo il teatro sperimentale a cui accennavo prima. Quindi monitor, persona davanti, un cerchio viene fatto apparire nella parte alta del monitor insieme a un suono acuto. La domanda che voi fate è dove era collocato il cerchio, perché poi probabilmente lo spostate anche in basso. Certamente, ero in alto e in basso. Il soggetto tende a rispondere più rapidamente a dire è in alto se insieme all'alto ha anche sentito un suono acuto, è così? È esattamente così. Mentre invece se fate viceversa, cioè gli fate sentire un bel oboe con il cerchio in alto, risponde più lentamente. C'è un costo per la risposta. Se risponde più lentamente si commettono più errori. Va bene, adesso allora arriviamo al suo esperimento, ce lo descrive. Allora, noi avevamo degli stimoli visivi e degli stimoli uditivi. I nostri stimoli visivi erano dei cerchi che potevano essere grandi o piccoli e i nostri suoni potevano essere acuti o bassi. Va bene. Possono essere accoppiati in maniera congruente o incongruente. Congruente, acuto, va con un oggetto piccolo, basso va con un oggetto grande. Sì. Incongruente è di fatto l'accoppiamento opposto. Opposto. Noi prendevamo e presentavamo i suoni e le immagini da diverse posizioni spaziali. Cioè appare un cerchio grande e un suono alto o basso. Voi gli chiedevate se il suono era a destra o a sinistra dell'immagine? Esattamente questo. Ok. Di localizzare appunto il suono rispetto all'immagine. E quello che si è visto è che quando suoni e immagini erano congruenti, le persone non erano brave, non riuscivano a dire in maniera precisa se il suono veniva da destra o da sinistra rispetto all'immagine. Quindi cerchio piccolo e suono acuto. Se c'era questa combinazione, le persone? Le persone erano meno precise a dire se il suono veniva da destra o a sinistra dell'immagine rispetto a quando utilizzavamo stimoli non congruenti, ad esempio un suono acuto presentato con un cerchio grande. Allora qui mi verrebbe da dire, siccome noi tendiamo a mettere insieme immagine piccola con suono acuto, quando poi ci arriva tendiamo a vederle come una cosa sola, quando ci appare tendiamo a vederla come una cosa sola, mentre invece se abbiamo l'immagine piccola col suono basso sono due cose diciamo diverse per noi e quindi tendiamo a capire meglio la differenza tra una e l'altra. Esattamente questo, detto altrimenti noi integriamo meglio stimoli congruenti rispetto a stimoli incongruenti. Questo potrebbe avere delle applicazioni interessanti in molte situazioni in cui noi ci troviamo. Sto pensando adesso banalmente, guardi, la prima roba un po' magari sciocca che mi viene in mente, ma nella guida di un'automobile lo stridere acuto di una frenata e delle cose che bisogna fare, e uno è dentro l'automobile, c'è il cruscotto, c'è il volante, insomma forse si potrebbe studiare meglio la disposizione di oggetti, di forme? Assolutamente sì, ma forse ancora più che in una macchina diventa interessante l'applicazione di questo tipo di associazioni in una cabina di pilotaggio in un aereo, dove comunque il pilota ha di fronte moltissimi tasti cui deve rispondere, diverse spie alle quali deve prestare attenzione. Se noi in questo caso associassimo ad esempio determinate caratteristiche visive ed uditive dello stesso tasto piuttosto della stessa spia, noi potremmo avere una risposta migliore in termini di accuratezza, in termini di velocità della risposta. Un'altra possibile applicazione sarebbe ad esempio nei sistemi di sostituzione sensoriale. Pensiamo ad esempio a una persona non vedente, non ha l'idea di quanto grande sia un oggetto di fronte a sé. E noi potremmo pensare di riuscire a veicolare quest'idea di grandezza, ad esempio attraverso i suoni. Potremmo dire che l'oggetto che hanno di fronte può essere grande così, che acuto. Acuto, che sarà di sicuro un oggetto più piccolo rispetto a un oggetto tipo un oboe, appunto. No, boy. Perché quello che lei dice è che probabilmente il cieco, anche non avendo la vista, però comunque una certa predisposizione a mettere insieme piccolo con acuto ce l'ha. Potrebbe averla, e questa sarebbe un'interessantissima, affascinante applicazione di questi risultati sperimentali. Cesare Parise, grazie per questa conversazione e auguri per il suo lavoro. Grazie a lei. Allo Smithsonian Museum a Washington l'anno prossimo si aprirà una sezione che quasi certamente susciterà grande interesse e molta meraviglia da parte delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno visitano questo museo, e però anche molte critiche. In una serie di sale infatti saranno esposte delle ricostruzioni molto accurate di tutta la serie di ominidi che hanno segnato il lungo percorso evolutivo della nostra specie. Si partirà dai nostri cugini più lontani circa 6 milioni di anni fa per arrivare ai cosiddetti uomini delle caverne, le popolazioni che ci hanno lasciato tanti segni della loro vita, delle loro e dei loro rituali in molte caverne appunto europee, con quelle pareti densamente occupate da dipinti di animali e vegetazione, e qui siamo da 300 a 50.000 anni fa. Vi ho parlato di probabili entusiasmi e altrettanto probabili critiche. Il motivo di questa divaricazione è originato dalla qualità delle ricostruzioni. Si sta lavorando a dei modelli a grandezza naturale molto accurati, anzi enormemente accurati, tali tali da poter essere interpretati come degli esseri viventi se non ci si accorgesse della ovvia fissità dei modelli. La sensazione che si avrà quindi entrando nelle sale dello Smithsonian Museum sarà quella di incontrare una delegazione di antenati. Ho visto alcune fotografie di questi modelli, sono apparse nell'ultimo numero di Science e vi assicuro che il realismo è impressionante. Ma proprio qui sta il punto. Alcuni paleontologi dicono che non si hanno dati a sufficienza perché si possa permettere questo realismo. È vero che negli ultimi anni una serie di tecniche, di scienze diverse e incrociate hanno consentito grandi avanzamenti nella capacità di risalire alle forme del corpo, del volto, per esempio, a partire da resti ossei, anche largamente incompleti. Anche gli anatomopatologi che lavorano nel campo della criminologia hanno dato importanti contributi in questa direzione. Ma questi avanzamenti bastano? Ci sono dubbi. Si ragioni per esempio su questo fatto. Possiamo ricostruire alcuni aspetti fondamentali di un nostro antenato di 1 milione di anni fa, ma possiamo capire come era distribuito il grasso? Può essere benissimo che certe concentrazioni di grasso nelle natiche o nella pancia o sulle cosce fossero pronunciate e assolutamente fisiologiche. Non si dividevano insomma tra grassottelli che dovevano fare la dieta e altri snelli e palestrati come intendiamo noi oggi. Questi particolari che però sono in grado di influire significativamente sull'immagine complessiva non sono conoscibili, dicono alcuni ricercatori. Un altro aspetto è quello dell'espressività. Può sembrare strano, ma se ci pensiamo un attimo non lo è. C'è una storia dell'espressività che è legata a molti fattori. Qualcosa lo si nota pure oggi, perché ci sono delle popolazioni che hanno alcune modalità espressive che sono tipiche, molto specifiche. Ma se torniamo indietro di 400.000 anni, sull'espressività interveniva anche una forma del volto che certamente aveva un suo peso. Se già conosciamo con qualche approssimazione la struttura di questo volto, beh, con l'espressione probabilmente siamo ancora più a rischio. E questi modelli ovviamente non sono tutti, sarebbe tremendo con delle facce congelate e prive di alcuna espressione. C'è anche da dire tuttavia che anche i critici delle nuove sale dello Smithsonian sostengono che l'operazione ha una sua importanza. Attirerà molto pubblico, farà sviluppare l'interesse per la storia della nostra specie e quindi sarà comunque un prodotto culturale importante, con qualche imprecisione, ma importante. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come è sempre accaduto nella storia dell'umanità, ci sono cose nel presente la cui portata si misura più avanti nel tempo. Fra qualche decennio, per esempio, si capirà perché questi anni che noi stiamo vivendo saranno stati gli anni di una rivoluzione chiamata tagging. Ve ne parla Chiara Albicocco. Le parole chiave per chi usa internet sono all'ordine del giorno. Se siete abituati a inserire e a condividere le foto sul famoso sito Flickr o se siete i curatori di un blog, ecco, sicuramente vi sarete imbattuti nel fenomeno del tagging, cioè quelle parole chiave che dovrebbero aiutare l'utente della rete a raggiungere le informazioni cercate. Allora, ci sono sicuramente dei criteri e delle scelte ben precise che si celano dietro a questa scelta di tagging. Alcuni ricercatori romani, insieme ad una collaborazione europea, hanno elaborato un modello fisico-statistico che spiega e analizza questo fenomeno. A capo di questo progetto c'è il professor Loreto, che è docente di fisica dell'Università La Sapienza di Roma ed è qui con noi questa sera. Benvenuto Loreto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Io inizierei spiegando, per chi non lo sapesse, che cos'è il tagging, che è davvero così diffuso in rete, ma in realtà molti di noi non lo conoscono e non sanno cos'è. Allora, il tagging è un fenomeno relativamente recente, anche chiamato fenomeno di annotazione sociale, relativamente recente nel senso che i primi esempi risalgono al 2004-2005 ed è in realtà un fenomeno per cui gli utenti assumono un nuovo ruolo nella rete, quindi non più soltanto produttori di contenuti, ma in qualche modo anche architetti dell'informazione, nel senso che siamo partecipi del processo con cui l'informazione sulla rete viene organizzata, strutturata per essere poi ovviamente ricercata e ritrovata in un secondo momento. E il tagging è essenzialmente il processo per cui gli utenti associano a determinate risorse, che potrebbero essere, come dato lei, una fotografia, però anche un articolo scientifico, una pubblicazione, un sito web, delle piccole paroline, appunto chiamate tag, che potrebbero anche essere parole chiave, scelte in un numero, diciamo, completamente libero e senza nessun vincolo, semplicemente seguendo una sorta di processo di associazione mentale fra la risorsa che si ha a disposizione, ad esempio la fotografia che si vuole etichettare, e diciamo quello che noi immaginiamo possa meglio rappresentare questa risorsa. Quindi diciamo è un processo interessante, nel senso che parte a livello individuale, quindi diciamo l'attività dell'utente è puramente individuale, però poi diventa collettiva, nel senso che bisogna poi immaginare milioni di utenti che effettuano queste stesse operazioni in diversi momenti della giornata e per un periodo di tempo prolungato, il che in qualche modo produce una sorta di classificazione prodotta dal basso, quindi dall'attività collettiva degli utenti, che poi permette poi di navigare le informazioni, diciamo di ritrovarle in un secondo momento. Quindi in qualche modo la cosa interessante di questi sistemi è che vengono chiamati in una maniera forse non particolarmente elegante sistemi tecnosociali, nel senso che combinano degli aspetti tecnologici, che sono quindi la rete, ma anche dispositivi mobili come i telefonini, i sensori, e poi aspetti sociali, ma soprattutto poi una cosa importante è in qualche modo gli aspetti cognitivi, perché dietro questo processo di annotazione c'è l'utilizzo di capacità cognitive degli umani che nessun processo di intelligenza artificiale potrebbe riprodurre con la stessa efficienza. Quindi sono poi diverse direzioni di interesse per studiare questo tipo di fenomeni. Ecco, e questo tipo di etichettatura, chiamiamola così, virtuale, è stato l'oggetto del vostro studio. Voi avete svolto un'analisi piuttosto accurata su quelle che sono appunto queste tag diffusissime nella rete, e che cosa avete scoperto, che cosa è emerso dal vostro studio? I risultati sembrano essere parecchio interessanti. Sì, beh, innanzitutto bisogna dire che noi lavoriamo su questo tipo di temi più o meno dal 2006 nell'ambito di un grande progetto europeo. Poi più recentemente in realtà ci siamo concentrati con dei colleghi sia dell'Istituto di Interscambio Scientifico di Torino sia del CNRS francese su dei problemi specifici che sono, cioè riusciamo a modellizzare in qualche modo qual è il processo cognitivo che porta gli utenti a scegliere alcuni tipi di etichette piuttosto che altre, e abbiamo cercato di immaginare un processo per cui gli utenti abbiano in testa una specie di rete di associazione concettuale, e poi il processo di etichettatura è in qualche modo una specie di cammino aleatorio, che è un concetto ben noto in fisica perché è stato in qualche modo studiato per la prima volta agli inizi del Novecento da Einstein, una specie di cammino dell'ubriaco, random walk, diciamo seguendo la catena diciamo di associazioni mentali in questo spazio che noi abbiamo rappresentato come un grafo complesso, che adesso diciamo è un argomento di studio abbastanza interessante in fisica statistica. E quindi in questo modo abbiamo potuto immaginare la costruzione di un sistema di etichettatura artificiale, quindi poi confrontando le proprietà statistiche di questo sistema di etichettatura artificiale e del vero sistema di etichettatura. Quindi avete confrontato i due giganti grafi, i due giganti database, quello reale e quello invece statistico che avete lavorato. Artificiale. I risultati sono sorprendenti perché effettivamente c'è una grande similarità fra le proprietà statistiche del grafo artificiale e del grafo reale, il che in qualche modo conferma la bontà dell'ipotesi, cioè il fatto che immaginare che il processo di etichettatura corrisponda a qualche processo di cammino aleatorio in uno spazio concettuale opportuno comincia a prendere fondamento. Ovviamente questo è soltanto l'inizio, poi diciamo ci vogliono studi molto più approfonditi, e una cosa interessante è il fatto che questi studi non possono prescindere dalla collaborazione fra diverse discipline, da un lato la computer science, la fisica, certo, e la matematica, ma anche la psicologia e le scienze sociali dall'altro. Ecco, immagino che sia difficile, ma si può dire qualcosa di quali sono i processi mentali e cognitivi che portano gli utenti ad etichettare, a dare delle tag in un modo piuttosto che in un altro? Beh, diciamo ancora non è che si possa dire moltissimo. Quello che sta emergendo è una sorta di processo di associazione di idee, un po' come quando si fa il giochino della catena, nel senso si dà una parola e si chiede all'utente di dire la prima parola che gli viene in mente. Una poi sorta di brainstorming. Utente. Una specie essenzialmente. Ci sono anche dei giochini in rete che sono stati fatti per accumulare dati in questa direzione. Uno dei più famosi è questo chiamato Human Brain Cloud, la nuvola diciamo del cervello umano, sì, in cui essenzialmente si è fatto questo gioco, si sono poi raccolti tantissimi dati che adesso noi stiamo cominciando ad analizzare. Quindi diciamo è uno studio un po' all'inizio, appunto perché c'è questo aspetto un po' interdisciplinare, però sicuramente diciamo il potenziale è molto grande. Ecco, a proposito, quindi con uno sguardo al futuro, quale potrebbe essere le possibili applicazioni di una comprensione ovviamente più approfondita di questo tipo di fenomeno? Beh, da un lato diciamo il fatto di capire meglio come si comportano gli utenti diciamo ha diverse valenze, nel senso che si possono immaginare diversi tipi di applicazioni e quindi diversi tipi di modalità di interazione fra l'utente e la rete, quindi diciamo per trovare le informazioni in maniera più efficiente, scartare le informazioni inutili, eccetera eccetera. Dall'altro si può forse provare a pensare di capire un po' meglio quali sono i processi mentali e i processi cognitivi dietro questo tipo di fenomeni di annotazione, perché è evidente che gli utenti lasciano una traccia semantica o comunque di significato in questa loro attività, e quindi è in qualche modo interessante utilizzare questo tipo di fenomeni per capire cosa c'è alla base. Più in generale, in realtà questo è semplicemente un aspetto del, del problema. Quello che sta emergendo negli ultimi, direi, pochissimi mesi è la possibilità di utilizzare la rete, quindi tutte queste nuove tecnologie, come una piattaforma di tipo nuovo per effettuare esperimenti nell'ambito delle scienze sociali. Quindi diciamo il tagging è uno di questi esempi, però in realtà ormai parecchi laboratori nel mondo stanno cominciando a pensare di effettuare esperimenti nell'ambito delle scienze sociali utilizzando gli utenti che partecipano a progetti sulla rete, con l'idea che ovviamente il bacino di utenza sarà molto più grande dei tipici esperimenti che si fanno con 50 o 100 persone nell'ambito delle scienze sociali, insomma. E poi quando è tutto più chiaro, mi diceva anche fuori onda che sarà possibile trovare, una volta che si è capito il meccanismo generale, trovare anche qualcosa che possa essere utile per lo spamming, essere utile per la risoluzione di alcuni problemi che ancora ci sono. Assolutamente, nel senso che il problema della ricerca di informazioni è ancora lì e diventa sempre più importante man mano che la quantità di informazione sulla rete aumenta e anche si diversifica, diciamo, come, come tipologia. E poi ovviamente il fatto di in qualche modo evitare l'informazione indesiderata, appunto come lo spam, è un problema che sta sempre lì e cresce sempre di più. Tanto più poi un sistema viene utilizzato, tanto più diventa attaccabile dallo spam, e quindi è chiaro che i sistemi che crescono e che vengono utilizzati molto di più diventano anche più vulnerabili da questo punto di vista. Quindi no, ricerche di questo tipo poi alla fine possono essere utilizzate per trovare in qualche modo contromisure, ma soprattutto per proporre soluzioni nuove, diciamo, di interazione tra gli utenti e la rete. Va bene, allora io la ringrazio, le auguro buon lavoro e insomma mi sembra di capire che le vostre ricerche sono proprio in fase primordiale e sicuramente è una disciplina che avrà un forte sviluppo soprattutto nel futuro. Grazie professore. Grazie mille, buona giornata. Ettore Majorana è un personaggio affascinante e strano, indubbiamente nella storia della scienza in generale, in particolare di quella italiana. È uscito un libro, e ora ve ne parla Maurizio Melis, nel quale si rende conto di uno scambio di lettere fra Majorana e suo zio Quirino Majorana, erano entrambi fisici, e in queste lettere troviamo anche alcuni accenni alla trasmissione di immagini, insomma siamo agli inizi della televisione. Enrico Fermi, padre della fisica teorica italiana, una volta disse che c'erano tre tipi di scienziati: quelli che pur lavorando duramente non conseguivano risultati significativi, quelli che ottenevano grandi risultati e facevano scoperte fondamentali, e lui insomma dava la sensazione di volersi inserire in questa seconda categoria, e poi c'erano i geni, come Ettore Majorana. Majorana è una delle figure più misteriose, tragiche e geniali della fisica del Novecento. Il suo è uno di quei miti che può nascere solo quando il protagonista scompare prematuramente. Il 25 marzo del 1938, infatti, dopo alcuni giorni in cui ha una corrispondenza con varie persone vorticosa e contraddittoria, in cui Majorana dichiara di voler scomparire, forse addirittura suicidarsi, il fisico sale su un piroscafo diretto a Palermo e il giorno successivo, dopo aver spedito due ultime lettere, sparisce. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, né è mai stato però più visto vivo negli anni successivi. Ettore Majorana allora aveva 31 anni. Nessuno sa dove sia finito. Le ipotesi vanno dal suicidio all'autoesilio alla vita monacale addirittura. L'avvitamento di Majorana tuttavia era iniziato molti anni prima. All'età di 25 anni, infatti, la stella del fisico nato a Catania nel 1906 era già altissima. I suoi contributi spaziavano già allora in numerosi campi della fisica teorica. Ma a quel punto, a 25-26 anni, aveva già iniziato ad autoisolarsi. Dal 33, quindi 5 anni prima di sparire, smise di frequentare l'istituto di via Panisperna, allontanandosi quindi dalla fisica ufficiale. D'altro canto, se la scomparsa di Majorana è un mistero, altrettanto lo sono le ragioni della sua decisione. Perché Majorana decise di sparire? C'è chi sostiene, per esempio, che avesse perso interesse per la fisica o che vivesse una sorta di crisi di creatività. Tuttavia, su questo periodo oscuro della vita di Majorana getta luce una collaborazione testimoniata da una fitta corrispondenza con lo zio Quirino Majorana, anch'egli fisico, ma fisico sperimentale di grande statura, che diede importanti contributi, per esempio, a sviluppare la radiotelefonia. Ecco, l'epistolario che raccoglie questa collaborazione è stato a sua volta raccolto in un volume dal titolo Ettore e Quirino Majorana, tra fisica teorica e sperimentale. Un volume ampiamente documentato, curato da Giorgio Dragoni dell'Università di Bologna ed edito dal CNR e dalla Società Italiana di Fisica. La raccolta di lettere copre una parentesi che va dal 31 a tutto il 37, quindi a poco prima della scomparsa di Ettore Majorana. La corrispondenza rivela tra l'altro una collaborazione davvero molto intensa tra i due, che lavorano rispettivamente sul versante teorico e sperimentale a una serie di problemi fisici connessi con la possibilità di scansionare e di trasmettere immagini. Si tratta niente meno quindi che di lavori alla base della tecnologia della televisione. Dal carteggio emerge un Ettore Majorana tutt'altro che disinteressato alla fisica e tutt'altro che in preda a una crisi di creatività. Tuttavia rifiuta più volte allo zio di firmare con lui gli articoli scientifici, dimostrando quindi una sorta di amore e odio. Tutto ciò sembra puntare in direzione della possibilità che Majorana avesse intuito appieno e con grande anticipo rispetto ai suoi colleghi fisici che dagli studi sul nucleo atomico di cui egli era uno dei massimi esperti sarebbe presto saltato fuori il fantasma della bomba atomica. A dubitare che una tale intuizione fosse decisamente alla portata di Majorana sono veramente in pochi, anche perché insomma i segnali c'erano, la bomba era per così dire nell'aria, anche se solo un intelletto come quello di Majorana poteva afferrare l'idea così presto. Di certo Majorana sapeva che la sua scomparsa non avrebbe potuto che ritardare di qualche anno la bomba, ma comunque forse insomma, ha preferito non partecipare a quello che molti considerano il peccato originale della fisica. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nel 1905 Einstein consegna alla storia della scienza la teoria della relatività. Nel 1907 Pablo Picasso fa altrettanto con un quadro, Le fanciulle di Avignone, che nella storia dell'arte contemporanea sono un passaggio analogo a quello della relatività, possiamo dire. Barbara Gallavotti vi racconta il senso di questa relazione. Torniamo a parlare di arte e scienza. Forse ricorderete che lo avevamo già fatto alcune settimane fa ed era a proposito del diffuso, anzi diffusissimo, interesse dei musei della scienza verso l'esposizione di oggetti artistici. Questa volta però parliamo di qualcosa di un po' diverso, come e se scienza e arte si influenzano. Lo spunto viene da un articolo che il fisico e storico della scienza Pasquale Tucci ha appena pubblicato sulla rivista Per la Tangente. È una bellissima rivista di matematica e secondo me gli appassionati di numeri e non solo non dovrebbero perdersela. La storia riguarda due giganti del Novecento, l'artista Pablo Picasso e lo scienziato Albert Einstein. In particolare due loro opere. Una sono le famosissime fanciulle di Avignone, che sono state dipinte da Picasso nel 1907, e l'altra è la teoria della relatività, che Einstein ha formulato due anni prima, nel 1905. Pasquale Tucci, intanto la saluto. Buonasera. Buonasera. Ci racconta questa storia? Nel quadro di Picasso c'è la scomposizione dello spazio. Le figure non sono dipinte in maniera naturalistica ed è possibile cogliere una qualche forma di connessione col fatto che la teoria della relatività, nella teoria della relatività ristretta, lo spazio e il tempo vengono riformulati e lo spazio euclideo non è più quello nel quale agiscono e si realizzano i fenomeni naturali. Quindi l'ipotesi è che le radici del cubismo, quindi della destrutturazione della figura naturale, affondino in una altrettanto distruttiva, se vogliamo, operazione sulla concezione fisica classica dello spazio e del tempo. Sì, è possibile diciamo dare una qualche evidenza a questo tipo di interpretazione. Non ci sono stati rapporti, questo è abbastanza certo, che non ci sono stati rapporti diretti tra Einstein e Picasso. Però c'è un testo che è stato pubblicato precedentemente sia alla teoria della relatività di Einstein sia al quadro di Picasso, che il testo La scienza e l'ipotesi di Poincaré. È un testo di divulgazione tradotto in varie lingue ed è possibile che almeno degli amici di Picasso lo avessero letto. Quindi la tesi è che ci fosse sostanzialmente un ambiente culturale, il medesimo ambiente culturale che avrebbe influenzato sia Picasso che Einstein. Che ha alimentato sia le teorie della relatività di Einstein, e questo dal punto di vista dello storico della scienza è abbastanza bene documentato, ma un po' meno documentato ma anche altamente plausibile, questo ambiente culturale attraverso amici di Picasso ha alimentato anche le considerazioni sull'arte di Picasso e quindi anche la sua arte direttamente. Ecco, io ho un altro esempio molto carino di come arte e scienza hanno convissuto, direi quasi si sono coevolute. Un esempio un po' più antico risale a un affresco del 1630 di Andrea Sacchi che si trova a Palazzo Barberini. Ora, l'affresco rappresenta un sistema eliocentrico, cioè un sistema in cui la Terra gira intorno al Sole, che era proprio quello che era stato sostenuto da Galileo. La cosa interessante è che l'affresco si trova in un palazzo del Papa, quindi un palazzo di quel medesimo Papa che poi fece processare Galileo. Ci sono soprattutto in quel periodo vari risultati di osservazioni scientifiche, in particolare astronomiche, che vengono rappresentate direttamente dagli artisti. Posso fare due esempi: il Cigoli, il primo, in una Madonna che rappresenta, in un affresco che rappresenta una Madonna, la Madonna è poggiata su una luna. La luna descritta è quella che Galileo aveva osservato per la prima volta col telescopio nel 1609, e ci sono dei rapporti documentati tra Cigoli e Galileo. Quindi Cigoli era stato direttamente influenzato dalle osservazioni di Galileo nel dipingere questa luna. Altri esempi possono essere Creti, è un pittore che ha descritto vari oggetti astronomici, tra cui i pianeti, e c'è Saturno, il quale è rappresentato con gli anelli. In epoca pretelescopica ovviamente non era possibile fare questo tipo di rappresentazioni, quindi una diretta trasposizione di risultati scientifici all'interno di rappresentazioni pittoriche. Proviamo a fare un piccolo gioco, senza nessuna pretesa di rigore. Proviamo a individuare quali sono le influenze scientifiche nelle principali correnti artistiche del Novecento? Sicuramente alcuni artisti del Novecento sono stati influenzati dai discorsi che si fanno sulla scienza e intorno alla scienza. Non so, ricordo Balla, il quale, non so, ha fatto vari dipinti nei quali parla, così che sono i titoli sono Mercurio passa davanti al Sole, per esempio quello del 1914, o altri del genere. Balla, siamo in pieno futurismo, quindi. Siamo in pieno futurismo. Fontana lo stesso è stato molto influenzato e comunque era curioso dei risultati ottenuti dalle osservazioni astronomiche, dalle teorie astronomiche, sebbene, diciamo, quando lui dipinge un quadro nel quale ci siano, che il titolo dato al quadro abbia un soggetto di carattere astronomico, è difficile vedere l'oggetto che è descritto. Perché è una rappresentazione completamente astratta, sebbene sia stato, diciamo, suggestionato da queste osservazioni oppure concetti astronomici. E sicuramente qualcosa che influenza un po' tutti gli artisti, una teoria che influenza o comunque che incuriosisce molti artisti e dei quali si vede poi qualche cenno in varie forme di arte, è la meccanica quantistica, o perlomeno quella parte della meccanica quantistica che ha a che fare col principio di indeterminazione, e quindi con l'impossibilità di localizzare in maniera univoca una persona, un oggetto. Ovviamente queste suggestioni a volte si sono trasferite in alcune forme di arte, per esempio, non so, al cinema, all'uomo invisibile, per esempio. Altre volte hanno solamente suggestionato qualche artista e alla lontana ne hanno influenzato qualche realizzazione. Però non potrei individuare un nesso così stretto, così come è stato possibile individuare per esempio nel caso di Picasso o nei casi per esempio citati di Creti, di Galileo, di Cigoli e altri. Grazie Pasquale Tucci, buonasera. Buonasera. Currame senza ramica sull'usona, currame senza ramica sull'usona. E hai, lo cuore meo, meo, meo, meo, ca sul tonico. Mella, mella, mella, nina, perché l'amore gira sa de fa. E hai. Eccoci qua, tamburelli, chitarrine, Chiara Albicocco. Eh sì, buonasera, la pizzica salentina in questa puntata ferragostana, come potevamo non tuffarci nel mare. E tu mi vuoi convincere che esiste la salentoterapia? Sì, allora, qualche settimana fa abbiamo ricevuto in redazione un comunicato stampa molto particolare. All'inizio l'abbiamo preso sul serio, io ti leggo l'incipit, poi ti introduco il nostro ospite e poi vediamo in realtà che cosa si cela dietro. Allora, la notizia di qualche settimana fa di questa scoperta scientifica fatta da parte di un gruppo di ricercatori dell'Università Teulandese di Dorkenstein, secondo la quale è sufficiente soggiornare anche per pochi giorni sulla penisola italiana a sud della Puglia, quindi nel Salento, per trarre notevoli benefici sia a livello fisico che psichico. Allora, noi abbiamo fatto finta di crederci, soprattutto che esistesse l'Università di Dorkenstein, e abbiamo chiamato il professor Daniele Manni, che è uno dei promotori di questa iniziativa. Buonasera Daniele. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto ci spieghi, ci ha preso un po' per il naso, insomma, questa università di Dorkenstein non esiste, però... Su questo aspetto sì, però non l'abbiamo preso sul naso sull'aspetto della salentoterapia, nel senso che era già da tempo che noi ricevevamo da parte dei turisti, degli ospiti, questa constatazione di sentirsi meglio dopo essere stati nel Salento. E allora, come dire, abbiamo preso un po' la palla al balzo e l'abbiamo presentata al grande pubblico sotto forma di una scoperta scientifica fatta da emeriti scienziati. Ecco, ma non è che adesso voi avete migliaia di persone che vi chiedono di questa benedetta università che non c'è, che però ha un bellissimo nome per l'università. Qualche persona che ci chiede di questa università, correggendoci, dicendoci dove è posizionata l'università. Infatti devo essere anche sincero da questo punto di vista, che c'è stato un docente universitario dell'Università di Napoli che ha chiesto specificatamente su quale rivista è stata pubblicata questa ricerca, in base a quali sono stati i canoni con cui sono stata svolta, quali sono state le domande, e non ce la siamo sentita di rispondere per non farlo sentire troppo imbarazzato. Però vedi, qualcuno ci è cascato veramente. Noi all'inizio è fatta grossa. Sì. E abbiamo scoperto anche con curiosità su molti siti di medicina alternativa che è stata riproposta. Ora non sappiamo se è stata riproposta sempre col tono scherzoso nostro oppure perché ci sono cascati. Allora, noi raccogliamo lo scherzo, però in realtà qualcosa di vero c'è, nel senso, io sono stata 2 anni fa in Salento e so che veramente funziona come terapia. Ma perché è uno dei posti più belli del Mediterraneo, assolutamente, per quello che si sta bene. Bravi. Certo. Ma sei pagato. E poi vi siete spinti anche più in giù, cioè nel senso, avete proprio eviscerato. Ci sono veramente tantissime terapie che si possono... Sì, esatto. Noi in pratica abbiamo raccolto, fatto un po' una piccola indagine nostra, e abbiamo scoperto che ci sono 12 terapie che funzionano nel Salento, che sono, come dire, l'aromaterapia dei profumi, piuttosto che l'idroterapia del mare, piuttosto che l'elioterapia, che è la cura del sole, abbinando ad ogni terapia una località della penisola salentina. Un velo di verità c'è. Un velo di verità c'è, assolutamente, nel senso che a tutti gli effetti, poi lei, se c'è stata, può darci conferma e può farci da testimone. Assolutamente. Le persone se ne vanno dal Salento sorridenti, ecco, se ne vanno sorridenti, quindi comunque c'è questa cura velata, non ancora scientifica, ma ci stiamo lavorando. E poi abbiamo avuto un assaggio anche prima, devo dire, la musicoterapia è fenomenale in quei posti. Ecco, ma poi ecco, quella è la terapia per eccellenza, perché per la pizzica è proprio nata come terapia, nata veramente come un ballo per esorcizzare i danni provocati dalla puntura della tarantola. Va bene, senta, gliela facciamo passare perché siete stati troppo divertenti con invenzioni di questa università qui, però guarda, durerà decenni questa cosa qui dell'università che ha fatto le ricerche sul Salento, non ve le libererete mai. No, ormai l'abbiamo fondata e chissà che un giorno non avremo anche degli studenti. Dei laureati in salentinismo, roba del genere. Se volete degli stagisti noi ci offriamo. Va bene, allora buon lavoro e soprattutto buona serata, stasera si ballerà al ritmo della pizzica. Assolutamente, e tutti alla notte della taranta di Melpignano. Buonasera. Grazie, arrivederci. Fino ad oggi si pensava che l'apparizione dei primi strumenti musicali fosse databile intorno al 4000 a.C. Non è più così. Trasportiamoci in Germania, per l'esattezza nelle grotte di Hohlefels, siamo nel meridione della Germania. Da queste parti, 8-9000 anni fa, dovevano esserci degli avvoltoi e probabilmente c'erano in molte altre parti dell'Europa. Fa effetto pensarci ora, ma sappiamo come sono andate le cose, no? Qualche anno fa, per esempio, si trovarono resti di elefanti nelle vicinanze di Parma e non fu aperta un'inchiesta contro il circo Togni. Erano elefanti molto antichi. Allora, quell'avvoltoio germanico deve essere passato a miglior vita per anzianità o cacciato da qualche umano, e comunque un umano ha trovato i suoi resti, il suo scheletro, e si è preso l'osso, il radio, osso che negli uccelli si trova nelle ali. Le ali di un avvoltoio sono poi abbastanza grandi. Quest'osso è forato, ma il nostro antenato gli ha fatto dei fori suoi, 5 aggiuntivi, e questo significò aver creato un flauto. Il tutto è databile intorno agli 8.000 anni fa, la musica quindi va spostata di 5.000 anni più indietro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo per tornare indietro di diversi decenni, a più di 50 anni fa. Davide Coero Borg è qui con me questa sera. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Davide Coero è un nuovo collaboratore di Mebius. Davide, stiamo per tornare indietro di 50 anni, dicevo, a Pisa, a metà circa degli anni 50 del secolo scorso, e con una sigla, CEP. Che cosa vuol dire? È la calcolatrice elettronica pisana, la prima calcolatrice elettronica a valvole, il primo computer della storia italiana, che viene progettato proprio nella Pisa degli anni 50 da un'equipe di giovani fisici e di elettronici reclutati da un cinese venuto dall'America che si chiama Mario Chu. E tutto questo ruota intorno alla Olivetti di quegli anni. La calcolatrice, diciamo ai nostri ascoltatori, non è una macchinetta piccola, in realtà è il primo grande computer costruito in Italia, ma in quegli anni erano gli anni anche in generale nel mondo dei primi grandi computer. Hai già citato Mario Chu, nome italiano, cognome cinese, un personaggio singolare in tutta questa storia. Chi era? Mario Chu è figlio di un diplomatico della Cina imperiale presso il Vaticano, che va poi negli Stati Uniti a studiare e si laurea al Politecnico di Brooklyn, e a 28 anni già insegnava presso la Columbia University. Ed è lì che Adriano Olivetti va a pescarlo, cervello in fuga potremmo dire, e lo riporta in Italia per metterlo a capo di questo progetto che deve costruire il primo computer italiano. Perché Olivetti si è spostato sull'elettronica Adriano, mentre invece l'azienda, quella del padre, andava in generale ancora sulla meccanica, ma Olivetti intravede che il futuro è in questo settore. Adriano, con i suoi piccoli occhi azzurri che guardano il futuro, come lo descrive anche Natalia Ginsburg in Lessico familiare, vede nell'elettronica la vera prospettiva della fabbrica, che invece adesso è, all'epoca, incentrata sulla meccanica. Noi abbiamo in linea adesso Renato Betti, docente del Politecnico, che è stato giovanissimo uno che ha incontrato Mario Chu, ma proprio per andare a lavorare con lui. Buonasera Renato Betti. Buonasera. È docente del Politecnico di Milano di geometria, ma allora lei era un giovanissimo? Ero un perito industriale neodiplomato nel 1960, che è stato assunto dall'Olivetti. Da Mario Chu. Dal laboratorio di ricerca elettronica, si chiamava LRE, che era diretto da Mario Chu a Borgo Lombardo. E era il laboratorio che stava lavorando a questo primo computer. Certo, il primo computer che poi è stato messo in produzione, in vendita, insomma, appunto nel 60. Com'era Mario Chu? Ma è una persona estremamente piacevole, molto cordiale. Io l'ho conosciuto appunto in questo colloquio che ho fatto, se ben ricordo doveva essere il luglio del 60. Ed era una persona, intanto interessante, che consultava tutte le persone che voleva prendere. Credo che facesse colloqui a tutti i livelli, agli operai, ai portieri, immagino anche agli amministrativi, insomma. Tutti. A tutti. Riusciva a mettere a proprio agio sicuramente, così le pensi a un giovane neodiplomato che viene richiesto da una ditta allora molto prestigiosa, insomma, e che quindi si trova in imbarazzo, e questo imbarazzo lo supera abbastanza presto. Chu era una persona molto giovane, immagino che avesse poco più di 30 anni allora, e abbiamo avuto un colloquio molto direi rilassato addirittura. Beh, rilassato, però insomma incalzava con domande abbastanza originali, no? Ne abbiamo ritrovata una e sì. gliela rifacciamo, vediamo se riesce ancora a rispondere. Ho capito qual è. No, non mi faccio rispondere. Lei ha nel cavo della mano 10 sferette d'acciaio, sì, di quelle che si usano nei cuscinetti, certo, ciascuna del diametro di un millimetro. Quanto pesano in tutto? Così. Ecco, e lui voleva una risposta, io credo di aver sparato un numero impressionante, cioè dell'ordine del mezzo chilo. E lui mi ha guardato così, un orientale, guarda sempre in una maniera un po' ironica, e poi dopo però io mi sono subito fermato e ho detto no, qualche decina di grammi semplicemente. Okay. Erano domande per capire qual era la dose di buonsenso e di intuito. Non gli interessava, sì, proprio niente di quello che lei già sapeva, voleva vedere, sì, come ragionava. Sì, l'impressione che ho avuto è stata questa e mi ha anche un pochino spiazzato, ma piacevolmente, spiazzato perché a un certo punto si è messo a spiegarmi delle cose che poi posso ricostruire, che era il calcolo binario, che però naturalmente non si faceva assolutamente a un istituto tecnico. Mi ha dato da fare dei conti, delle divisioni, cose di questo genere. Evidentemente il calcolo binario gli interessava, ma non era per questo, credo, che me l'ha chiesto, ma per vedere come reagivo ad una cosa nuova, insomma. Sentamente, allora, noi abbiamo già parlato della CEP, che però in quegli anni lì sta già diventando ELEA, e infatti, sì, noi siamo al cinquantenario, festeggiamo i 50 anni di questo, certo, primo grosso computer italiano, ELEA. Quanti ne furono prodotti? Non ho idea, magari lei non lo sa. No, non lo so. Non ma lo non so. Credo più di qualche decina, forse una cinquantina. Ricordo che si vantava molto il fatto che se ne era stato regalato uno forse al Ministero delle Finanze. Il primo cliente effettivo era, mi sembra, Marzotto. Poi ricordo pochi altri nomi dell'ordine della decina, pochi, almeno per quello che riguarda la cosiddetta 9003, sì, perché ci sono state fatte diverse versioni, insomma. Erano operanti, quando c'ero io, una 9002, detta anche 1V, V per valvole, che era occupava un centinaio di metri quadrati, insomma. Grandissima, con tutte le unità disco, così, e questa era situata nella sede dell'Olivetti in via Clerici. Poi c'era la versione transistor 1T, la 9003, e di questa è stata messa in produzione, ma io credo soltanto qualche decina. Sentamente, sì, ma erano buone macchine per allora? Erano macchine avanzate? Erano macchine che sì, sembravano avanzatissimi, cicli di memoria di 10 microsecondi, millisecondi, chiedo scusa, che si sembravano fantascienza, memoria veloce da 20.000 byte, che adesso farebbero ridere, certo, naturalmente. Ce li avevano negli orologi, ovviamente. Sì, certo. Evidentemente, però sembravano grandi cose, grandi numeri. Le difficoltà erano nel fatto che non esistevano linguaggi di programmazione. Io lavoravo in quel settore, quindi bisognava proprio creare dei linguaggi compatti, insomma, perché sennò si doveva lavorare in linguaggio macchina, guardando i buchi delle schede, i caratteri alfanumerici, insomma. C'erano difficoltà, era un vero e proprio inizio. Fa parte anche di questa vicenda, però, una tragedia che va un po' a chiudere il sogno dell'elettronica italiana, che è la morte di Adriano Olivetti nel 1960, seguita immediatamente l'anno successivo, nel novembre, da quella di Mario Ciu, che muore a 37 anni in un incidente stradale. Come reagì il popolo dell'Olivetti? Con sgomento, assolutamente, lo ricordo nettamente, non solo per noi, insomma, per cui lui ci aveva selezionato uno a uno. Tutte le mattine passava per i corridoi, ci salutava, insomma, così, era un po' una figura paterna, non solo per noi, ma a tutti i livelli, anche i suoi collaboratori diretti. Un'autentica tragedia è stata. Pesò, ci è voluto molto. Ci siamo sempre trascinati l'idea di questo personaggio così attivo e benvoluto. Poi l'Olivetti il laboratorio stava anche passando da Borgo Lombardo, dove aveva la storica sede milanese, stava passando a Pregnana, no? Quindi c'erano anche vari cambiamenti, insomma, da allora è tutto cambiato, mi sembra. Renato Betti, grazie per questi ricordi e buon lavoro. Grazie a voi, buonasera. Forse i nostri ascoltatori saranno molto sorpresi nel sapere che una di quelle macchine è ancora in circolazione ed è funzionante. E andiamo allora a cercarla, questa macchina a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove incontriamo Stefano Del Furia, che è al telefono con noi, che è docente di informatica presso l'Istituto Enrico Fermi di Bibbiena, che è un po' il capomastro che tiene le fila di questo Elea, lo cura, lo fa vedere ai suoi ragazzi. Ma che storia ha questa macchina? Da dove arriva? Com'è che ce l'ha lei e non qualcun altro? Buonasera Del Furia. Buonasera anche a voi. Dunque, la storia di questo nostro Elea 9003 risale al 1972, quando il Monte dei Paschi di Siena, dopo anni di onorato servizio di questa macchina, che era il secondo esemplare della serie 9003, decise di sostituirlo con qualcosa di più aggiornato e la banca incominciò a cercare un posto dove poterlo collocare. L'ITIS di Bibbiena, che è sempre stata una scuola all'avanguardia nella provincia di Arezzo, in Toscana, era la prima scuola ad avere la specializzazione in telecomunicazioni ed in elettronica, e quindi la scelta fu la scelta di elezione per il Monte dei Paschi di Siena, che ce lo donò e ce lo allegò con tutti quanti i suoi componenti. Ecco, ma senta, voi avete un 1T, T sta per transistor, quindi è un po' più piccolo di quel macchinone da 100 metri quadri che era invece l'1V a valvole, oppure comunque grosso? No, è comunque un calcolatore gigantesco, sono più di 100 metri quadri di calcolatore. Ah, anche stato... questo? Sì, anche questo è molto grande, pesa quasi 5 tonnellate, ci sono più di 3500 schede a transistor e a diodi. È comunque un macchinario che consuma 20 kW ed è 100 metri quadri di calcolatore. E se succede qualche cosa, se si rompe qualcosa, come fate? Se si rompe qualche cosa è un problema, perché nonostante nella nostra scuola ci siano un sacco di competenze, in quanto siamo una scuola di informatica, elettronica, eccetera, questo calcolatore è così vecchio che nessun docente quasi è in grado di capire il suo funzionamento. Ma come? Non c'è un libretto di istruzioni? Sì, un libretto di istruzioni di circa 3.000 pagine con quasi 200 schemi elettrici e funzionali, scritti però con una codifica e una simbologia sconosciuta praticamente ai giorni nostri. Certo, certo. Però voi non è che lo fate andare continuamente, ormai questo, voi siete insomma depositari di un pezzo storico, ogni tanto lo metterete in funzione, ma immagino non sempre. Sicuramente, tenere acceso questo calcolatore è un impegno anche dal punto di vista del consumo dell'energia elettrica. Lo teniamo acceso per il tempo necessario a farlo vedere alle varie scuole che ci vengono a trovare, alle persone appassionate di retrocomputing e anche per i nostri studenti, ai quali questo calcolatore sicuramente serve per capire meglio l'informatica e come si è evoluta nel corso degli anni. Ma che lei sappia è l'unico rimasto. Ah sì, che noi sappiamo è l'unico rimasto, fu il primo calcolatore interamente transistorizzato commerciale al mondo e probabilmente il nostro esemplare è l'unico rimasto intatto e funzionante praticamente al 90%. Professor Del Furia, allora grazie e mi raccomando, conservate con grande amore questo oggetto che poi col passare del tempo sarà sempre più prezioso. Buon lavoro. Grazie anche a voi di averci contattato. E questa allora era la storia del CEP, poi diventato Elea. Il primo computer italiano. E con questa storia avvincente e strana del primo computer, grande calcolatore italiano, io vi saluto, buona serata a tutti e a tutte, buon Ferragosto e vi ricordo che appunto in agosto Möbius va anche in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16. Buona serata ancora. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.